Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Notizia sportiva conferma in appello la squalifica di Conte a 10 mesi. Resta la soluzione per Pepe, Bonucci e Di Vaio. Prezzi della benzina da record, oltre i 2 euro sulla rete ordinaria. Crolla un pezzo del muro del Pincio, opera di Valadie. Colpa della neve di quest'inverno e del caldo di questi giorni. Girano sul web 2 foto del principe Harry nudo. La Casa Reale chiede ai giornali di non pubblicarle. Buona giornata dalla redazione di GR24 da Maria Piera Ceci. Duro il giudizio della giustizia sportiva nell'inchiesta calcio scommesse. Sentiamo. Niente sconto. La Corte di Giustizia federale conferma sostanzialmente anche in appello la sentenza della disciplinare. E allora per il tecnico della Juventus campione d'Italia Antonio Conte arriva la doccia gelata dei 10 mesi di squalifica confermati per l'omessa denuncia relativa alla gara Albino Leffe Siena, visto il proscioglimento per la partita Novara-Siena. Colpo da KO, ma il match con la giustizia sportiva non è finito, visto che l'allenatore bianconero ricorrerà al Tribunale Nazionale Arbitrale dello Sport del CONI. Confermato anche il proscioglimento per i 2 calciatori della Juventus e della Nazionale Pepe e Bonucci per la gara Udinese-Bari e confermati anche i 6 mesi per omessa denuncia e il proscioglimento rispettivamente per i bolognesi Portanova e Di Vaio per il match Bologna-Bari. Stangata per il Lecce che ha visto confermata l'esclusione dalla B mentre ha accolto il ricorso del Grosseto che resta quindi nella serie cadetta. Confermati anche i 3 anni di squalifica per il senese Pesoli che in questi giorni era incatenato per protesta sotto la sede della Federcalcio. Dario Ricci, Radio 24, il Sole 24 Ore. Borse europee negative questa mattina mentre proseguono gli incontri per il salvataggio della Grecia. Oggi il premier greco Antonis Samaras incontra Jean-Claude Juncker, capo dell'Eurogruppo, a cui presenterà un piano biennale da 13,5 miliardi di euro e non più da 11 miliardi come inizialmente previsto. L'incontro ad Atene con il capo dell'Eurogruppo si concluderà in serata con una conferenza stampa. Atene chiederà probabilmente una dilazione di 2 anni per i tagli che valgono 20 miliardi di euro di nuovi prestiti. Questo sarà l'oggetto dell'incontro di domani a Berlino tra il presidente francese François Hollande e il cancelliere tedesco Angela Merkel e poi dell'incontro tra il premier greco Antonis Samaras, sempre venerdì, che a Berlino incontrerà ancora una volta la Merkel. Parigi probabilmente tenterà di ammorbidire le dure posizioni tedesche in favore della Grecia. Il destino dell'euro passa da Berlino. Vittorio D'Arolda, Radio 24, il Sole 24 Ore, Berlino. La Russia è da oggi a tutti gli effetti membro del WTO, l'Organizzazione Mondiale del Commercio. Dopo 18 anni di negoziazioni, Mosca diventa così il 156esimo membro e secondo la Banca Mondiale questo garantirà ogni anno alla Russia un 3,3% in più del PIL nei primi 3 anni. Una lettera al governo per chiedere una proroga allo stop del pagamento delle tasse per le zone terremotate, esenzione che scade allo stato attuale il 30 settembre. L'hanno firmata i governatori di Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia, colpiti appunto dal recente terremoto. Sentiamo il presidente dell'Emilia, Vasco Errani, al microfono di Oscar Giannino. Si deve intanto riallineare la scadenza, non è settembre secondo noi, ma novembre. Poi a novembre bisogna fare un altro provvedimento che riconosca il rinvio di tutti i pagamenti alle imprese che hanno e continuano a avere danni tali da avere problemi nella produzione e ai cittadini che hanno le case in incipiti perché non possono pagare l'IMU. È una questione di equità. Ho parlato con il governo, io sono convinto che il governo comprenderà questa posizione e rapidamente interverrà per promuovere azioni attraverso provvedimenti legislativi. Naturalmente noi stiamo parlando di un terremoto che per la prima volta ha colpito un'area così intensamente abitata da imprese e imprese anche proiettate all'export a livelli di eccellenza. E stiamo parlando di un terremoto che si innesta in una crisi pesantissima. E poco fa l'Agenzia delle Entrate ha fatto sapere di non avere alcun potere decisionale sull'eventuale proroga degli adempimenti fiscali per i territori colpiti dal terremoto in Emilia. Suo compito, infatti, fa sapere all'Agenzia delle Entrate, è solo quello di applicare le leggi. E questa mattina al meeting di Rimini il vice ministro alle infrastrutture Mario Ciaccia ha annunciato di star lavorando ad una defiscalizzazione per le nuove infrastrutture per le quali si accerti che non sono sostenibili con l'attuale peso dell'IVA. Stasera invece alle 19 sarà la volta del governatore della Lombardia Roberto Formigoni, in forse fino all'ultimo la sua partecipazione al meeting per le inchieste che lo stanno riguardando. Nuovo record per il prezzo della benzina, che ha oltrepassato quota 2 euro al litro, il massimo storico registrato sulla rete ordinaria, cioè fuori dalle autostrade. Ma in alcuni piccoli distributori questa soglia è già stata superata da giorni. A sfondare già da giorni la barriera dei 2 euro al litro per la benzina sono le pompe bianche, quelle che non hanno il marchio delle grandi compagnie, note per gli sconti, ma in altri casi costrette, per i costi di distribuzione meno efficienti, a praticare prezzi più alti, come conferma Davide Tabarelli, direttore di Nomisma Energia. Abbiamo dei casi estremi in queste vacanze, in cui 2,1 euro per litro della benzina è già stato superato da tempo. Poi ci sono delle mega offerte durante il weekend, con valori addirittura inferiori di 40-50 centesimi. Ovviamente il consumatore è molto disorientato, ma allo stesso tempo può avere delle occasioni di grosso risparmio. A spingere sui prezzi sono le quotazioni internazionali del greggio, che si sono riaccese nelle ultime settimane, e tra costi e tasse per le compagnie non restano molti margini e dunque anche gli sconti potranno solo diminuire. Perché al netto delle tasse il prezzo è circa 80 centesimi e sui costi industriali di importazione sono 60, perciò rimane poco per le compagnie e per le grandi catene per fare degli sconti. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Tornano a protestare gli operai dell'Alcoa di Porto Vesme in Sardegna, bloccati questa mattina gli accessi all'aeroporto di Cagliari Elmas e molti passeggeri sono rimasti intrappolati nel traffico. Hanno dovuto abbandonare le auto e raggiungere a piedi l'aeroporto. Sentiamo ai nostri microfoni Bruno Usai, delegato FIOM CGL. Siamo in prossimità dell'aeroporto Elmas di Cagliari, abbiamo bloccato sia l'accesso per l'aeroporto sia anche l'uscita, perché ancora una volta vogliamo attirare l'attenzione di chi ancora non ha fatto il suo lavoro, il suo dovere. C'è la politica che da anni, dal 2008, noi siamo in strada cercando di rivendicare il nostro posto di lavoro, sempre ha promesso che avrebbe risolto il problema del settore dell'alluminio in Italia e così ancora non è stato. Noi abbiamo una società che ha dichiarato che se entro il 31 agosto non arriva nessuna lettera di intenti di un altro soggetto industriale che acquista lo stabilimento, loro dal 3 attuano il loro piano, che è quello di chiusura dello stabilimento. E vorrebbe dire la morte del settore dell'alluminio in Italia, perché non c'è nessun altro che produce alluminio nel nostro paese. Vuol dire che anche questo prodotto verrà importato nel nostro paese. E noi andiamo a casa in un territorio, il Sulcis-Gresiente, che ha la provincia più povera d'Italia, col più alto numero di cassi integrati, più alto numero di persone in mobilità, di disoccupazione. A Roma il crollo di un pezzo del muro del Pincio. Sarebbero le piogge e le nevicate di questo inverno, sommate ad un'estate particolarmente secca, le cause del crollo avvenuto nella notte al Pincio. A venire giù è stato il rivestimento di un muro in via Gabriele D'Annunzio, 9 metri di lunghezza per 20 centimetri di profondità. La struttura in mattoni sarebbe invece salva. Il muro di contenimento si trova nella salita a tornanti che collega Piazza del Popolo alla storica terrazza della capitale, progettata nella prima metà dell'Ottocento dall'architetto Giuseppe Valadier. Sul posto sono subito intervenuti i tecnici della Sovrintendenza ai Beni Culturali di Roma. Il tratto di strada interessato dal crollo è stato già messo in sicurezza, ma almeno fino a stasera resterà chiuso al traffico. Non si tratta di un danno particolarmente grave, ha fatto sapere il sindaco Alemanno, perché interessa solo la cortina superficiale del muro. Per ripararlo saranno necessari 15 giorni di lavoro e circa 300.000 euro. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Il caldo dunque avrebbe contribuito a far crollare il muro del Pincio, e sempre il caldo rende duro il lavoro di chi è impegnato in questi giorni sul fronte incendi. Sicilia, Sardegna e Campania. Sono arrivate da queste regioni le prime 10 richieste di intervento aereo per incendi segnalati fin dalle prime ore di questa mattina. Le temperature record di questi giorni danno manforte all'azione dei piromani o alla disattenzione. 137 i roghi spenti solo nella giornata di ieri, in netto aumento rispetto al 2011, come ci conferma Mauro Capone del Corpo Forestale dello Stato. Abbiamo già avuto 6.200 incendi, con un aumento di più del 70% del numero degli eventi rispetto all'anno scorso e con un raddoppio delle superfici bruciate. Dobbiamo tener conto che i prossimi 15 giorni sono quelli statisticamente più delicati per la lotta agli incendi boschivi. Resta alto l'allarme in Campania e in Calabria. Nel Parco Nazionale della Sila si registra oggi il terzo rogo in pochi giorni, ma l'emergenza interessa anche Lazio, Toscana, Umbria e Puglia. Massima l'allerta delle forze dell'ordine in Irpinia dopo il rogo costato la vita a un operaio forestale. Questa mattina a Torre Le Nocelle, provincia di Avellino, un uomo è stato sorpreso dai carabinieri mentre stava tentando di dare fuoco a delle sterpaglie. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E finiscono sotto accusa anche i guanti in dotazione al Dipartimento Nazionale dei Vigili del Fuoco, che sembrerebbero difettosi. Si moltiplicano infatti i casi di pompieri rimasti ustionati alle mani. Il Dipartimento ha annunciato immediati accertamenti. La denuncia arriva dal CONAPO, il sindacato autonomo dei Vigili del Fuoco. Sentiamo il segretario generale Antonio Brizzi al microfono di Maria Luisa Pezzali. Noi non mettiamo sotto accusa niente, però siccome abbiamo dei colleghi che hanno avuto delle ustioni in più zone d'Italia, noi non abbiamo fatto altro che informare l'amministrazione al fine che verifichi quanto è successo e eventualmente che individui eventuali cause. Colpisce quanto riportato sul libretto illustrativo di questi guanti, che vanno lavati a una temperatura non superiore ai 40 gradi e conservati lontano da fonti di calore. Il problema non è solo il lavaggio. Il lavaggio lo facciamo perché usiamo l'acqua per spegnere l'incendio. Quindi supera l'incendio, supera calore e acqua. L'acqua che dopo i guanti potrebbero andare a contatto, che è andata a finire sul fuoco e che si è surriscaldata, non è che noi abbiamo un termometro per dire questo è 40 gradi o 60 gradi. Finalmente concluso il giallo del calciomercato estivo. Sul sito del Milan è stata ufficializzata la cessione di Antonio Cassano all'Inter e l'acquisto di Giampaolo Pazzini dal club nerazzurro. Sul sito invece dell'Inter viene specificato che il contratto di Cassano è biennale. E questa sera alle 20.45, andata dei play-off di Champions League con l'Udinese in trasferta sul campo dei portoghesi dello Sporting Braga. L'allenatore dell'Udinese Francesco Guidolin ai microfoni Sky. È una grande occasione ancora che ci capita, e all'Udinese nella sua storia centenaria non è capitato tanto spesso, e che io sia riuscito insieme ai miei giocatori, al mio club, ai miei collaboratori, portare questa squadra a giocarsi il preliminare di Champions è una grande occasione da vivere con grande entusiasmo e motivazioni a mille. Arriviamo a questo preliminare con un attaccante soltanto, perché Muriel è infortunato, non si allena da 2 o 3 settimane, comunque si allena a singhiozzo, ma abbiamo Totò, cioè Totò è un fuoriclasse. Un sito di gossip americano ha pubblicato 2 foto del principe Harry nudo durante una festa in una stanza d'albergo a Las Vegas. L'autenticità delle foto sarebbe stata confermata dall'ufficio del principe Carlo. Secondo il Guardian, i consiglieri reali avrebbero comunque chiesto ai media britannici di non pubblicarle. E Michael J. Fox, il protagonista, lo ricorderete, di Ritorno al Futuro, riapparirà in TV con un telefilm trasmesso dalla rete americana NBC. Fox, 51 anni, tornerà nell'autunno del 2013 sugli schermi con una serie in 22 episodi ispirata alla sua esperienza personale. Racconterà infatti le vicende di un uomo sposato, padre di 3 figli, che vive a New York e si confronta ogni giorno con la malattia del Parkinson. Questo GR24 è stato curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Paolo Corleoni. Prossimo GR24 alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.